Aveva un'altra definizione, era il leone delle Fiandre. Perché vincere 3 volte consecutive questo Giro delle Fiandre, che era negato un po' a noi italiani, non era facile. Lui partiva da solo, a volte mi diceva a me, vieni con me, e io mi sono pentito di non andare con lui, non perché vinceva, perché andare al Giro delle Fiandre voleva dire anche accumulare esperienze, grande esperienza. Lui andò e lo vinse per 3 volte, ma anche lì mise in evidenza l'intelligenza, perché il muro di Grammont, i corridori belgi erano convinti che lo facevano più forte a piedi, perché c'era il pavè di 200 anni fa, quello con i sassi tondi, e lui disse, ma come a piedi? E lui si fece fare, da un suo amico Aliprandi del Viale Monza, si fece fare dei rapporti apposta, si fece fare il 24 di Corona e il 25, mentre l'anno non esisteva nemmeno, e lui li staccava lì, e per 3 anni consecutivi la gente lo vedeva passare solo, e usciva dai paraventi delle proprie case, e diceva, è le meme, cioè dire è il medesimo, non faceva più nemmeno effetto il terzo anno che vinse le Fiandre. Questo dice che sì, terzo uomo, ma qualche volta è stato anche il primo. Alfredo, poi tra di voi c'era un'amicizia un po' speciale. E noi ci siamo voluti bene come fratelli, veramente, non c'è mai stato un disguido fra noi, sempre un grande rispetto anche riguardo alla politica. Perché tu una volta lo hai difeso, no? Perché c'era un'accusa su di lui. Ma perché sono andato a testimoniare a suo favore, e dicendo delle cose vere, che era ben visto dalla gente, che credeva in quello che faceva, che era un uomo onesto, che era un uomo che dava riferimenti agli altri, e che era ad esempio. E penso che il presidente, considerato che doveva giudicare un giovane, queste cose penso che abbiano pesato a favore di Fiorenzo. Perché, lo ricordiamo per i giovani che magari non conoscono la storia, era stato accusato dopo la guerra di avere simpatizzato per il fascismo, era così, no? Ma lui, non lo so fino a che punto poteva esserlo, certamente non era un uomo di sinistra, come lo ero io, come lo sono anche oggi, anche se vanno rivedute tante cose, no? Però era un uomo che dava la parola, e la parola la manteneva. Un'ultima cosa, Alfredo, c'è una foto di Magni che tutti ricordano, è quello che, dove lui ha una clavicola rotta e che si aggrappa. E questo si dice della sua grande quella volontà ferrea, la sua tenacia, il suo voler essere in linea anche nei momenti peggiori, non si arrendeva mai, e sapeva sopportare il dolore quando la cosa lo meritava, e il Giro d'Italia, che è la più grande corsa italiana, meritava di onorarlo, e lui ha sempre onorato le corse, non è mai andato a una corsa per preparare un'altra, quando è andato ha voluto sempre essere il protagonista, era un combattente nato, vede, attaccava nelle tappe che sembravano di trasferimento, da Roma a Napoli, e lui attaccava nelle pianure, attaccava nell'attraversare un paese, era uno che interessava la gente proprio per i suoi attacchi, per la sua combattività.